Zenzeno nel mondo bizantino e in parte su di esso ci informerà Crimi con la sua relazione. Come funziona qui il microfono? Qui da me funziona malissimo, senti? Pronto? Sì, si sente? Sì, anche Strazitti fa rumore. Allora, vediamo un po', proviamo. Il 5 febbraio di un anno, fra l'844 e l'847, il patriarca di Costantinopoli, Metodio, pronunciava un encomio della santa siciliana Agata, forse proprio nel martirion che le era dedicato nella capitale dell'impero. Poco prima della conclusione del discorso, tre esametri e, pochissimo dopo, altri quattro, si incuneano nella paludata prosa del patriarca. Sono, in entrambi i casi, esametri di Gregorio Nazianzeno, tratti da uno stesso carme, 1.2.2, Iupothecai Parthenois. Quali erano le realtà di cui Metodio descriveva qualche tratto riutilizzando i severi versi del teologo? Anzitutto, il fiume di fuoco di una eruzione etnea, esempio mirabile di accostamento di contrari, elemento igneo ed elemento liquido. In secondo luogo, il fervido amore per Cristo della megalomartire Agata, conforme a quel modello cui aveva esortato la, citazione, vigile lingua, chiaro gioco di parole, Gregoros, Grigoros, con Gregorio, la vigile lingua, quella gregoriana, nei suoi versi. L'Etna ed Agata, dunque, una realtà naturale, la prima, le cui micidiali manifestazioni avevano dato luogo, a partire dagli archetipi eschilei e pindarici, a una gloriosa tradizione poetica. Una santa, la seconda, che proprio con quelle manifestazioni è indissolubilmente connessa nelle tradizioni agiografiche e nell'immaginario collettivo di ieri e di oggi. L'Etna ed Agata, probabilmente i tratti che della Sicilia erano più noti a Bisanzio e in Oriente, forse quelli che, nella capitale, riuscivano ad evocare maggiormente una realtà periferica ed eccentrica, quella siciliana, ormai parzialmente caduta sotto il dominio arabo. E non è probabilmente casuale che sia stato il patriarca Metodio, un provinciale, nato ed educato a Siracusa, a suscitare quei ricordi adeguatamente sostenuti e nobilitati dalle dotte citazioni di Gregorio, un altro provinciale. Tema certamente assai vasto è quello della fortuna di cui ha goduto nei secoli il Nazianzeno. Egli è considerato l'autore più citato, dopo la scrittura, nell'ambito della letteratura ecclesiastica bizantina. Questa singolarità giustifica l'abbondante messe di studi che a partire da circa un secolo a codesto tema sono stati dedicati e di cui non posso in questa sede ripercorrere i tratti salienti. Mi limito semplicemente a ricordare che le ricerche si sono scontrate e si scontrano con quella oggettiva carenza di edizioni critiche, magari provviste di commenti ed indici, ovvero di edizioni tout court, che a tutt'oggi fortemente condiziona chi si occupa della civiltà letteraria bizantina. Io partirei dalla constatazione, che non mi sembra del tutto banale, che i dati della fortuna di Gregorio a Bisanzio si assommano e si costituiscono nel lungo periodo in ciò che può definirsi una tradizione nazianzenica, come è stata pur chiamata. Ma si tratta peraltro di una tradizione che, in relazione alle diverse epoche del millennio che attraversa e ai distinti ambiti geografici e culturali in cui si manifesta, presenta notevoli varietà e molteplicità di tratti caratterizzanti. Una tradizione quindi che conosce significative sfaccettature e sottolineature diverse, pur conservando una sostanziale unitarietà di fondo. Del compaginarsi di questa tradizione, i secoli fra il VI e il IX costituiscono per certi aspetti un momento decisivo. Dopo il V secolo, dopo l'autorevole consacrazione che la dottrina di Gregorio riceve in quei concili, fra VI e IX secolo si creano alcuni fra gli strumenti che si affiancheranno alle opere del Nazianzeno e ne forniranno talora delle chiavi di lettura ai dotti e meno dotti dei secoli successivi. Vengono prodotte biografie del santo e composizioni poetiche di lode. Inoltre, è in questo periodo decisivo per le sorti della ortodossia a Bisanzio e per il consolidarsi in quella teologia del traditions argument che entrano massicciamente a far parte dell'arsenale standard dei teologi ortodossi più o meno ampi ex certa di scritti gregoriani, ex certa che da ora in poi chiameremo col termine tecnico di chrisis, ovvero creseis. Infine, in numerose opere del periodo in questione si rinvengono, in quantità di solito proporzionale alla paideia dei loro autori, citazioni di svariata estensione, spesso assai brevi, segnalate ovvero nascoste, oppure allusioni a passi del Nazianzeno. Un panorama complesso di emergenze, tra virgolette, di una fortuna che vanno dal macroscopico, come nel caso dei commentari e dei corpora degli scoli, fino al microscopico, costituito dalle brevi o brevissime citazioni o allusioni. Assolutamente prematuro, di codesto panorama, quella desiderata caratterizzazione in cui ogni particolare, acquistando lo spessore che gli è proprio, vada ad occupare la casella che gli compete. Ne mancano, come si è detto, molti fondamenti, ma pur nella dichiarata impossibilità di precisarne adeguatamente confini e dimensioni, chi voglia comunque presentarne uno scenario convincente dovrà anzitutto cercare di cogliere i nessi esistenti fra le emergenze macroscopiche e quelle microscopiche, evitando di studiarle in un astratto isolamento. Esse infatti dovevano annodarsi, sia pure su livelli e con esiti distinti, su di una trama pur sempre unitaria che si è chiamato fin qui tradizione nazianzenica. Una tradizione che queste emergenze contribuiscono a creare nel momento stesso in cui ne affiorano. Numerose opere di Gregorio hanno sollecitato la produzione di altri testi, commentari, scoli, opportunamente classificati fra quelli di uso strumentale, e con essi, nel corso dei secoli, hanno continuato a intrattenere, con una costanza che forse oggi non si riesce a cogliere pienamente, un rapporto stretto, forse. Di questa correlazione fra testo da un lato e scolio, ovvero commentario, possiamo talora individuare le tracce. Farò due esempi, non del tutto omogenei fra di loro. Il primo già l'ho reso noto qualche anno fa e quindi lo riprendo molto, insomma, con una certa brevità. Il primo esempio è questo. In un poema in esametri, dal titolo Giobbe, che è stato di recente pubblicato in Editio Princeps da Westering, Leone il filosofo, quella eminente figura della Rinascenza bizantina del IX secolo, produce, ai versi 598 e seguenti, un exemplum di disprezzo della ricchezza da parte di un filosofo pagano seguace della Virtus. Citazione. Così anche Antistene, scampato al naufragio, disse: «Ti ringrazio, o Tiuche, che con sollecitudine ti prendi cura di me. Mi hai ridotto al nudo mantello, tribonion, perché senza affanno possa io percorrere il cammino della virtù e della sapienza». Fine della citazione. Questo episodio non figura fra quanto le fonti antiche e tardoantiche ci tramandano sulle vicende del filosofo cinico. L'aneddoto, che è riferito da Leone il filosofo, è simile invece a ciò che viene riferito sul conto di Zenone di Cizio. Gli elementi sono il naufragio, ridursi in povertà, il ringraziamento alla Tiuche. Ve ne attestazione in molti scrittori, tra cui anche Basilio di Cesarea. Perché mai nel dottissimo Leone troviamo codesta singolare attribuzione ad Antistene? Ecco, la risposta, come per molti, moltissimi altri quesiti che la letteratura bizantina ci pone, va ricercata nelle opere del Nazianzeno. Però, attenzione, lette e filtrate attraverso quei testi eruditi, fra virgolette, che dovevano accompagnarle e facilitarne la lettura. Due sono i passi gregoriani col naufragio di un filosofo antico che ne ringrazia la Tiuche. In uno di questi, nell'orazione 472, non troviamo il nome del filosofo, ma la tradizione scoliastica, con quel suo caratteristico horror vacui, non poteva esimersi dall'indicare ai curiosi lectores chi potesse mai essere il misterioso personaggio adombrato da Gregorio. E così avviene che lo pseudo-nonno, autore nel VI secolo di commentari mitologici a orazioni del teologo, fa addirittura due nomi, Antistene e Zenone, quindi due nomi tra cui Antistene, e questo ci interessa. Nel secondo passo, tratto dal Carme 1.2.10, l'aneddoto invece è attaccato, però con molti dubbi da parte di Gregorio, ai gesta virtuosi di un altro cinico, Cratete. Nel relativo commento di Cosma di Maiuma, o il Melodo, o il Gerosolimitano, autore di un commentario ai Carmi, su cui abbiamo ascoltato ieri, troviamo egualmente menzionati Antistene e Zenone, oltre che naturalmente Cratete. E qui Cosma, come gli capita decine e decine di altre volte, l'ha egregiamente indicato il professor Trisoglio, qui Cosma non fa altro che ripetere gli ipsissima verba dello pseudo-nonno. Tiriamo a questo punto le somme. Leone il filosofo, nell'alludere all'aneddoto del naufragio, si è rifatto al Nazianzeno, come lo indica, tra l'altro, qualche parallelo formale esistente fra Gregorio e il dotto bizantino. Ma è ancora più interessante, ai nostri fini, sottolineare che egli, nell'indicare Antistene, qual protagonista dell'aneddoto, si è sicuramente rifatto a quanto leggeva nei commentatori del padre della Chiesa, trascegliendo fra le distinte possibilità che costoro offrivano. Si può dunque ipotizzare che Leone leggesse i suoi testi gregoriani assieme ai rispettivi commentari e scoli e ne recepisse, in qualche modo, le indicazioni. E poco importa a questo punto se queste indicazioni erano errate, anzi direi che è proprio grazie a questa loro qualità che siamo in grado di rintracciare certi inconsueti percorsi della tradizione nazianzenica. E veniamo al secondo esempio. Il rapporto di, virgolette, contiguità, diciamo così, non so trovare un termine migliore, fra testo e relativi commentari, sembra condizione essenziale per spiegare lezioni sporadicamente attestate dalla tradizione manoscritta. Nel Carme 2.10, ai versi 206 e seguente, Gregorio enumera alcune scuole filosofiche dell'antichità. Vengono date al plurale, retoricamente, le stoai, le accademie, e di queste vengono sottolineati dissidi e incongruenze. Al verso 206, nel citare la stoa, egli menziona un tratto caratteristico di quei filosofi, degli stoici, la superbia impressa sui volti. Il testo greco dice prosopon, genitivo plurale, o frues. Lo stesso fa anche in qualche passo, lo stesso rimprovero agli stoici, fa anche in qualche passo di altre sue opere. Ora, c'è un manoscritto toxoniense barocci greco 96, che presenta, anziché la lezione prosopon, che è tradita concordemente dal resto della tradizione manoscritta, sia diretta che indiretta, presenta una lectio singularis, peripaton, genitivo plurale, dei peripati, in base alla quale, nel verso in questione, oltre alla stoa, dovremmo scorgere una esplicita menzione del peripato. Di questa lezione peripaton, che a mio giudizio è da rigettare, si può rintracciare la genesi precisa nell'interpretazione che al verso in questione dedica Cosma. Questi, infatti, a riguardo del nostro passo, cita a sproposito Senocrate, qual fondatore della scuola stoica, e introduce sempre a sproposito il nome di Aristotele. Perché mai Aristotele? Perché il commentatore qui non ha fatto altro che ripetere meccanicamente quanto trovava nella sua fonte individuata, e cioè, al solito, lo pseudo nonno, e ha trascinato di peso nel proprio testo non soltanto quanto si riferiva a Senocrate, fatto passare per stoico, ma anche ciò che nella fonte vi si trovava tutto attorno, e precisamente notizie su Aristotele e la sua scuola. È in questo modo che lo Stagirita e il Peripato vengono inopportunamente correlati al verso 206. Quindi, a questo punto mi domando qual congetturatore, anche mediocre, avrebbe resistito alla tentazione di cavar fuori dalla esegesi di Cosma un Peripaton al posto di Prosopon. Ma anche in questo caso si tratta di Felix Culpa, perché in tal modo possiamo intuire qual correlazione vi sia stata in qualche momento fra commentario e qualche testimonio di tradizione diretta. Se da un lato considerare le emergenze macroscopiche e microscopiche della fortuna di Gregorio in un quadro di sostanziale unitarietà e continuità presenta indubbi vantaggi, perché permette di non isolarle artificialmente, dall'altro è opportuno porre in risalto i distinti livelli che sono propri delle singole emergenze. Presuppongono un livello eminentemente culto di fruizione quelle numerose crisis gregoriane, le quali, apparse teologicamente rilevanti o comunque funzionali, vennero inserite in florilegi a carattere dommatico. E questo è il caso della dottrina patrum de incarnazione verbi, composta fra gli anni 60-80 del VII secolo, la quale raccoglie un buon numero di crisis attinte soprattutto alle orazioni 20, 29, 30, 31, 38, 39, 40, 42, ma anche all'Epistola 101 e ai Carmi. Ci si trova innanzi quindi a un testimonium insigne della fortuna del teologo, da collocare per certi aspetti nel solco di quella tradizione nazianzenica di cui si è detto. E ciò riceve conferma da un dato. Come ancora di recente è stato sottolineato, la genesi di quell'enorme compilazione che è la dottrina patrum va vista all'interno di milieu ortodossi che si muovevano sulla scia dell'insegnamento di Massimo il Confessore. Non per nulla è stato fatto il nome di Anastasio Apocrisiario, scolaro di Massimo, quale suo autore. E si sa quanto profonde siano le radici cappadoci della dottrina di Massimo, vero esponente della tradizione nazianzenica al VII secolo. Ma l'accenno alla dottrina patrum permette di aprire un altro discorso più tecnico circa l'utilizzazione, in chiave di storia della tradizione e di critica testuale, delle crisis ivi contenute. Sembra opportuno, a questo punto, ricordare che il principale manoscritto che tramanda il florilegio è il Venerando Vaticano Greco 2200, che è datato fra la fine dell'VIII secolo e gli inizi del IX, il famoso manoscritto in minuscola agiopolita che è citato e di cui si hanno fotografie in tutti i libri di paleografia. In quale misura possiamo noi riporre incondizionata fiducia nella edizione critica che della dottrina patrum venne data dal Dekamp e che è stata anastaticamente riproposta nel 1981? Un sondaggio che ho sistematicamente condotto sul lungo excerptum del Carme de Virtute, 64 versi, trasmesso da 4 dei codici latori del florilegio, conduce ai seguenti risultati. L'apparato di Dekamp, oltre ad essere fin troppo selettivo, non registrando che un numero assai modesto di varianti, omette sempre lezioni erronee o reputate di nessun interesse. Presenta anche qualche errore di suo. È difficile rendersi pienamente conto della facies testuale dei codici. Soltanto collazionando integralmente i 4 manoscritti della dottrina patrum con i testimoni di tradizione diretta si hanno esiti degni di attenzione. Mentre 2 dei codici del florilegio, i più recenti, hanno subito vistosissimi processi di interferenza con la tradizione diretta, gli altri 2, i più antichi, fra cui ovviamente il Vaticano Greco 2200, sono caratterizzati da una facies testuale piuttosto arcaica, tra virgolette, parzialmente irriducibile a quella del resto di tutta la tradizione manoscritta. Non so quali dati possano emergere da ulteriori sondaggi, ma certamente quello da me condotto induce alla cautela circa la utilizzazione incondizionata della edizione di DICAM. Accanto ai florilegi, altri importanti depositi di crisis sono gli acta conciliari. Talora le medesime crisis sono contenute sia nell'una che nell'altra classe di testi, verificandosi appunto complicati processi di scambio. E questo è il caso di una crisis gregoriana, tratta sempre dal Carme de Virtute e relativa alla continenza del filosofo Polemone, i cui percorsi fra gli inizi dell'VIII secolo e quelli del IX meritano di venire qui esaminati. Il passo in questione contiene una valutazione positiva della Eikon, un ritratto, di quell'antico filosofo. Da essa emanava una forza morale tale da stornare dal male chi stava per commetterlo. Gregorio si spinge fino a chiamare Sebasmia, venerabile, tale Eikon. Al brano, come a numerosi altri dello stesso Carme, rivolge la sua attenzione Cosmo. Egli peraltro si limita a ripetere con parole piane quanto i versi raccontano, senza rimanere per nulla impressionato dal Sebasmia né dalla valutazione positiva che della Eikon sembra che fornisca il Nazianzeno. Non v'è traccia alcuna di quella utilizzazione in chiave anti-iconoclasta del passo, la quale sarebbe stata poi preminente. Il primo a sfruttare in questa chiave, in chiave anti-iconoclasta, la crisis gregoriana è Giovanni Damasceno, fratello adottivo di Cosma, nel florilegio allegato al terzo libro del De Imaginibus. E se ne capisce bene il motivo. Nell'età dell'iconoclasmo, quando l'attenzione dei teologi iconoduli era spasmodicamente tesa a rinvenire nei padri qualunque appiglio in favore delle loro tesi, l'aggettivo usato dal Nazianzeno, Sebasmia, cioè venerabile, in riferimento ad Eikon, e il brano nel suo complesso non potevano che richiamarne l'attenzione di questi teologi iconoduli. A questo punto vorrei un pochino sottolineare ciò che tutto sommato ho detto un po' fra le righe. Perché per Cosma il tema della Eikon di Polemone non suscita alcuna risonanza? Ne vi sono tracce di una lettura in chiave polemica e attualizzante del brano? Si tratta di un caso? Oppure di ossequio forse alle regole non scritte del genere? Ma io dico che il silenzio di Cosma, in un periodo in cui la iconodulia veniva pesantemente messa in questione, appare piuttosto singolare. Dobbiamo forse pensare che il commentario venne composto in un momento in cui la crisi iconoclasta non era scoppiata o che comunque non aveva ancora assunto quei contorni di cui gli scritti del Damasceno ci trasmettono l'eco preoccupata? Ecco, si tratterebbe, è vero, di un tenue indizio, basato per di più su di un argumentum ex silenzio, ma che tuttavia costituirebbe un primo passo per l'affronto di un problema, quello della datazione del commentario stesso, finora non adeguatamente posto. L'indizio qui messo in luce servirebbe come terminus ante quem. Il lavoro di Cosma si collocherebbe prima dell'insorgere della crisi iconoclasta e sarebbero quindi congruenti i primissimi decenni dell'VIII secolo. Anche nella quarta sessione del secondo concilio niceno, settimo ecumenico, che si celebrò nel 787, e lì suscitò interessanti commenti da parte di quei padri conciliari. Questa crisis figura ancora in un florilegio sulle sacre immagini, tuttora inedito, che è contenuto nel Parisino greco 1115, riaffiora infine, sia pure parzialmente, in una epistola dell'iconodulo Teodoro Studita. Quindi questa crisis è entrata assai per tempo in ciò che si è definito l'arsenale standard dei teologi iconoduli e vi è stabilmente rimasta. Aggiungo che la versione latina degli Acta del Niceno II, completata da Anastasio Bibliotecario attorno all'873, la renderà accessibile anche al Medioevo occidentale. In epoche in cui nei dibattiti teologici assumeva grandissima importanza il traditions argument e le dispute si sostanziavano di poderose raccolte di crisis patristiche, anche i non ortodossi utilizzavano, e con ampiezza, i padri a sostegno delle proprie argomentazioni. Gli iconoclasti nel loro concilio del 754, quello di Ieria, voluto dall'imperatore Costantino V, produssero le loro auctoritates. Esse figurano nell'oros, la definizione dommatica di quel concilio, che noi peraltro conosciamo solo attraverso la amplissima refutatio, la confutazione, che ne venne fatta punto per punto nel corso della sesta sessione del Niceno II nel 787. Gli iconoclasti, fra gli altri, citarono anche il Nazianzeno. Mi soffermerò qui soltanto su di una piccola crisis, su un piccolo estratto, che è in realtà una versione in prosa, una metafrasis di un distico elegiaco del Carme 1.2.31, che dice così: insolenza è riporre fede nei colori e non nel cuore. Infatti la fede che si ripone nei colori facilmente si dissolve, mentre quell'altra che è nel profondo della mente è a me cara. Perché utilizzare, fine della citazione, perché utilizzare da parte degli iconoclasti quella Schrift Koiné, come è stata definita, che è propria delle metafrasi bizantine, e rinunciare al colorito dialettale e poetico del passo? Non ho a questo punto risposte ben precise da dare. Forse il depotenziamento del livello della citazione voleva assicurarne una maggiore fruibilità nell'ambito dei partecipanti al concilio del 754, e va nello stesso tempo sottolineato che la relativa confutazione degli iconoduli, prima ancora di entrare in merito al contenuto della crisis stessa, si preoccupi di condannare gli iconoclasti per avere prodotto non l'autentico testo gregoriano, bensì la metafrasis, e ne ristabilisce poi il genuino dettato come primo passo per la interpretazione. Preoccupazioni filologiche queste che crederemmo volentieri dettate dal patriarca Tarasio, che presiedeva il concilio, della cui educazione retorica e delle cui specifiche conoscenze nel campo della metrica siamo bene informati grazie al suo bios. Non interessa in questa sede seguire gli sviluppi ulteriori della refutatio, se non per segnalarne una certa genericità nella ispirazione moraleggiante. Ben più dettagliata e cogente sarà, a distanza di un secolo o poco più, la lettura che Niceta darà del passo. Non appaia a questo punto fuori di luogo, anche se molto brevemente, citare un intrigante episodio narrato in un testo agiografico risalente alla prima metà dell'undicesimo secolo, posteriore quindi al periodo qui preso in esame. In un passo della vita di San Nilo di Rossano, il santo italo-greco fondatore di Grottaferrata, leggiamo di una visione notturna in cui al giovane Nilo proprio il diavolo, nelle sembianze dei santi Pietro e Paolo, presenta la esegesi di un tormentato passo gregoriano. Soltanto al risveglio e dopo lunga riflessione, Nilo si accorgerà che il senso profondo di quanto gli era stato diabolicamente rivelato costituiva in realtà una, virgolette, mostruosa eresia. Nelle modalità proprie del genere agiografico, sembra qui adombrato il problema serio della possibilità che del Nazianzeno si desse una lettura non ortodossa, spesso innescata dalla densità e difficoltà stesse del suo pensiero. Io mi domando talvolta se dietro certe estenuate ripetizioni di concetti e frasi che passano da un commento a commento, da scoliasta a scoliasta, non vi sia qualcosa che sfugge al lettore moderno, tediato da quel modo di procedere, ma che invece toccava assai da vicino l'homo byzantinus, il voler continuare a operare lungo un solco già tracciato, una lettura che io chiamerei, conformisticamente rassicurante delle auctoritates teologiche e quindi anche di Gregorio. A un livello distinto da quello delle crisis gregoriane, funzionalmente inserite nei dibattiti teologici, troviamo citazioni di periodetti o frasi del Nazianzeno, ovvero allusioni utilizzate secondo un registro assai ampio nei più svariati contesti. E, è interessante notarne la presenza anche negli atti del Niceno II. Ad esempio, nella Refutatio è possibile leggere anche più di una volta qualche locus gregoriano che viene assunto a guisa di slogan, per esempio «Ten Bethlehem timeson, kai ten fatnen proskuneson», attinto ad orazione 38-17, ma di cui per capire bene una certa sonorità forse è opportuno darne una lettura in greco bizantino, moderno, e sarebbe più o meno così: «Tin Bethlehem timeson, che tin fatnen proskinison», cioè indubbiamente un ritmo molto piacevole. Oppure si legga la definizione di Bezaleel, il biblico costruttore della tenda santuario di Dio nel deserto, come ton architectona tes skenes, che è integralmente desunta da orazione 43-43. Autentici floscoli dunque, destinati peraltro, se accompagnati dalla menzione esplicita di Gregorio il teologo, a riverberare un raggio di auctoritas su tutto il contesto. A Bisanzio si è creato un avverbio apposito per indicare la conformità al pensiero e alla espressione del Nazianzeno. Theologikos, secondo il teologo. Esso trova un preciso corrispettivo in altri consimili, come ad esempio Graphikos, secondo la scrittura, Psalmikos, secondo il salmista, Apostolikos, secondo l'apostolo Paolo, Evangelikos, secondo i Vangeli, Patrikos, secondo i padri. L'avverbio in questione, utilizzato nella locuzione theologikos ipin e ipein, per dirla col teologo, è più frequente di quanto non appaia dal lessico di Lamp, che ne registra soltanto due occorrenze. Codesta locuzione, invece, appare tecnicamente usata per accompagnare citazioni o allusioni gregoriane. Presento qui tre nuove identificazioni di citazioni, accompagnate appunto dal theologikos ipin, ovvero da espressione equivalente. In una epistola del patriarca germano di Costantinopoli, scritta agli inizi della crisi iconoclasta al vescovo Tommaso di Claudiopoli, per scongiurarlo a recedere dalle posizioni non ortodosse che questi aveva assunto, si legge nel proemio, citazione: «Io ho sentito che la vostra beatitudine ha fatto alcune cose che, se son false, i venti le portino via», per dirla col teologo. Quel poetico «aurei avre feretosan», che tanto era piaciuto a Germano, riprende quasi alla lettera orazione 4.54. Ma qui Gregorio, come tante altre volte, dipende da una cospicua tradizione letteraria antica, molto probabilmente da Euripide Troiane 454, «aureis ferestai», che passa così, attraverso la mediazione nazianzenica, nel calamo dell'inconsapevole patriarca. In un testo edito dal cardinal Mercati, la cosiddetta epistola di Papa Pasquale I a Leone V sul culto delle immagini, che sembrerebbe piuttosto provenire da Milier, iconoduli bizantini, a un certo punto si legge, virgolette: «Mentre noi, e cioè gli iconoduli, cui, per dirla col teologo, fu concesso di fuggire l'errore della superstizione e di essere con purezza insieme a Dio, di conoscere la verità e di adorare soltanto Dio», fine della citazione, eccetera, eccetera. Abbiamo qui, segnalata dal Theologikos Ipin, una libera citazione di orazione 39.8, imperniata soprattutto sull'espressione «tin visi demona planin, ten deisi daimona planen», l'errore della superstizione, come traduce il professor Moreschini, ripresa alla lettera. È interessante notare qui che plane, nel linguaggio degli iconoduli, assume spesso una valenza tecnica, con riferimento specifico all'errore iconoclasta. Del termine gregoriano si è fatto quindi un uso attualizzante. Parimenti attualizzante è l'ultima citazione. Essa si trova in un testo agiografico, La vita di un santo iconodulo, Michele Sincello di Gerusalemme, scritta da un monaco del monastero costantinopolitano Tis Horas di Cora, prima dell'867. Gli iconoclasti sono qui bollati come, per dirla col teologo, acharistactismata, che tu poniru plasmata, kai tu poneru plasmata, creature ingrate, esseri plasmati dal maligno, come traduce sempre il professor Moreschini. Sono gli ipsissima verba che il Nazianzeno aveva pronunciato nell'orazione 38-14 per marchiare a fuoco gli ariani. E, come è stato osservato, non c'era arma migliore a Bisanzio dello screditare l'avversario, accusandolo di contiguità, mi si passi il termine, con le grandi eresie dei primi secoli del cristianesimo. Dietro a numerose ricostruzioni della fortuna di un autore antico o tardo antico, sta spesso la convinzione, tanto più radicata quanto meno consapevolmente espressa, che tutte le mediazioni e i passaggi di codesta fortuna affondino nel compatto e sicuro terreno della cultura scritta. Ma nel caso di Gregorio, la presenza di un dato significativo invita ad andare oltre per ricercare, se possibile, anche le mediazioni orali della sua fortuna. Questo dato è costituito da quel gruppo non troppo ristretto di orazioni che vengono designate come loghi anaginoscomeni, discorsi letti, cioè, nel corso di ufficiature della liturgia bizantina. Essi, per questo motivo, hanno goduto, nel corso dei secoli, di una serie praticamente infinita di mediazioni orali. Periodi e frasi di queste orazioni dovevano, relativamente spesso, risuonare nelle orecchie di audientes. Qualche espressione più caratteristica di altre poteva rimanervi più a lungo, sedimentando poi nella memoria e venendo così a far parte di un patrimonio di sentenzie e detti. Tutto ciò non significa, ovviamente, che di ogni citazione o allusione a passi dei loghi anaginoscomeni si possa sostenere la derivazione da mediazioni orali, però in linea di principio non andrebbe escluso a priori, soprattutto in determinate circostanze, l'eventuale ruolo che potrebbero aver giocato queste mediazioni orali. È probabile che anche in quei casi in cui meno remota appaia tale possibilità, ci si debba accontentare di avere avanzato l'ipotesi, senza poterla ulteriormente corroborare. Ma ciò, almeno in una prima fase, potrebbe anche bastare. È possibile fare a questo punto qualche esempio? Con cautela ne presento uno, il quale, sia per le sue caratteristiche intrinseche, sia forse anche per la qualità dei testi interessati, potrebbe fare al caso nostro. Nel proemio dell'orazione 40, uno dei loghi anaginoscomeni, leggiamo: «Coros de logu polemius aquais, os iuperballusa trofe somasi. La sazietà, in fatto di discorsi, è nemica alle orecchie, come il cibo in eccesso lo è ai corpi». Ne appare subito evidente il carattere gnomico che l'andamento stesso della frase, nella sua prima parte, mette in risalto. Un bizantino, infatti, in «coros de logu polemios aquaes», avrebbe probabilmente scorto un dodecasillabo con la sua canonica pausa dopo la quinta sillaba, anche se decisamente imperfetto e guastato per di più dalla accentuazione sull'ultima sillaba. Ma c'è di più: «coros de logu» può costituire anche l'inizio di un verso politico. Insomma, una frase come «coros de logu polemios aquaes», con pronuncia bizantina, è facilmente memorizzabile. È interessante notare che il passo gregoriano in questione è citato con esplicito riferimento a Gregorio in un additamentum che si inserisce all'interno di un testo agiografico del VII secolo, La vita del patriarca Giovanni Elemosiniere di Leonzio di Neapoli, non Napoli. L'additamentum, presentato da due manoscritti dell'opera in questione, è stato rigettato in apparato dall'editore di quel testo. Più interessante ai nostri fini è la rielaborazione che, del Corus de Logu, Polemios Aquaes, leggiamo in una delle redazioni del Vigenis Acritis, quella di Grottaferrata. Siamo evidentemente in un periodo un po' fuori dal periodo di cui comunque è importante, credo. La frase in questione è stata ampliata fino a raggiungere le dimensioni di due versi politici che suonano così: Coros garlogu osphisin oemos theologos tesa quest polemios dia pandos iparchi. E dice così: la sazietà in fatto di discorsi, come dice il mio teologo, è per sempre nemica alle orecchie. E qui si noterà, oltre la sfumatura affettiva e confidente dell'espressione il mio teologo, anche la marcatura del carattere di citazione autorevole, osphisin. All'interno della tradizione nazianzenica, variegata ma sostanzialmente unitaria almeno, abbiamo notato fin qui qualche polarizzazione degna di nota. Lettura del teologo in chiave ortodossa, ovvero non ortodossa. Mediazioni scritte e possibili mediazioni orali. Non dobbiamo dimenticarne a questo punto un'altra, assai importante, che è quella fra centro e periferia, fra capitale e provincia, lungo le cui linee di forza è possibile disporre le emergenze della fortuna gregoriana. Un'area certamente centrica è quella costituita dall'Italia e dalla Sicilia bizantine. Ci sono delle testimonianze abbastanza interessanti, tra cui, io credo, quella contenuta in un passo, in un lungo passo della vita di Gregorio, del vescovo Gregorio di Agrigento, che è un romanzo agiografico che è stato composto, secondo recenti indicazioni, fra il 787 e l'815. Ecco, qui c'è un passo molto interessante, di cui mi sono altrove occupato, che contiene tra l'altro una testimonianza interessante sul termine aporrita, arcana, in riferimento a passi difficili a cui viene sottoposto il futuro vescovo di Agrigento, che riesce ovviamente a superare con molta abilità la prova. È chiaro qui che la competenza, dalla lettura di questo testo appare chiaro che la competenza in materia gregoriana costituisce il tratto che caratterizza più compiutamente di altri la perfetta dottrina di un individuo pio e virtuoso. Un altro ambito decisamente centrico al tempo di Giovanni Damasceno e Cosma è anche quello siro-palestinese, che da decenni è ormai definitivamente perduto dall'impero bizantino. L'autore del commentario ai Carmi vive in una terra sottoposta al dominio arabo, in un ambito in cui le comunità calcedoniane, melchite, sperimentano via via crescenti difficoltà. Difficoltà che daranno origine, fra la fine dell'VIII secolo e gli inizi del IX, ad una emigrazione anche di intellettuali, tra virgolette, una delle tante emigrazioni, verso terre più ospitali, Costantinopoli in primo luogo. La stessa lingua greca in quest'ambito, siro-palestinese, perde gradualmente terreno, pur conservando intatto il suo prestigio di lingua di una grande e ancora vitale tradizione. Ecco un possibile senso, a mio giudizio, della operazione intrapresa da Cosma col suo commentario. Gregorio, quale segno forte di una identità nel contempo religioso e culturale che si intravedeva minacciata. Recuperarne l'opera significava recuperare anzitutto uno strumento linguistico di alto profilo, che di quella identità era componente essenziale. È verissimo che i risultati cui Cosma approda sono certamente inadeguati, ma al di là della meschinità di questi, risultati, va considerato il significato complessivo che la sua opera assume e il contesto storico e ambientale, che è certo diverso, ad esempio, dall'orizzonte dello pseudo nonno, i cui commentari sembrano presupporre un pubblico urbano di media cultura, con interessi per i miti pagani e le figure dei filosofi antichi, non infrequente in una delle metropoli dell'Oriente tardoantico. Quindi è ben diverso l'orizzonte culturale e storico, evidentemente. Ho ricordato all'inizio il patriarca Metodio e il suo encomio costantinopolitano di Sant'Agata. E a questo punto, infine, nella capitale dell'impero, vorrei ritornare. Niceta David Paflagone, sia consentito finalmente chiamarlo così, dopo gli studi di Jenkins, Patricia Carlin Eiter, Westering, J.J. Rizzo, non dovrebbero sussistere più dubbi sulla identificazione di Niceta David con il Paflagone? Niceta David Paflagone, dicevo, fecondissimo autore fra il IX e il X secolo di testi agiografici, nell'encomio del teologo di Gregorio ne narra, fra l'altro, citazione, i viaggi e gli spostamenti intrapresi allo scopo di raggiungere una ricca e varia educazione. Fine della citazione. Niceta asserisce che Gregorio si recò dopo Atene a Bisanzio, la quale, citazione, proprio da poco tempo era stata sollevata al di sopra del resto dell'Ecumene, e come ad essa, in quanto capitale, viene opportunamente conferita la ricchezza prodotta dal resto della terra, così già allora in essa, la più potente fra le città, si trasferiva la potenza più grande di tutte, quella della cultura. In questo tempo Gregorio aveva frequentato i dotti più ragguardevoli e si era abbastantemente addestrato in ogni parte della grammatica e della poetica, ed era sommamente rifinito nella retorica, eccetera, fine della citazione. Che Gregorio sia stato a Costantinopoli per motivi di studio non sembra attestato. Quella di Niceta potrebbe essere piuttosto la amplificatio di un piccolo dato biografico contenuto nella orazione 7. Il teologo qui ricorda che nel suo viaggio di ritorno da Atene in patria ebbe modo di incontrare a Costantinopoli il fratello Cesario, reduce dai suoi studi. I due tornarono poi insieme alla casa paterna ed è l'occasione che ha dato origine all'epigramma che abbiamo sentito illustrare stamattina dal professor Criscuolo. Quale quindi la funzione della amplificatio di Niceta, che evidentemente distorce il dato reale perché attribuisce un enorme significato proprio? Ecco, mi sembra che sia chiaro. Fare di Costantinopoli e non di Atene il coronamento di una più che decennale vicenda di studi e anticipare di parecchi anni il rapporto che ebbe a instaurarsi fra Gregorio e la capitale. Si tratta di un indizio, lieve quanto si vuole, ma chiaro, di una tendenza a ricentrare in chiave costantinopolitana il passato e a legittimare sin dalle sue origini la superiorità culturale e morale, direi, della capitale sul resto dell'impero. Anche Gregorio Nazianzeno non poteva che venire attratto in quell'orbita costantinopolitana. Erano ormai maturate le condizioni perché Costantinopoli si riappropriasse, per così dire, di quel, virgolette, pastore piccolo e povero che molti secoli prima vi era giunto. Grazie.